dibattito che esse suscitarono fin dall'antichità. Sia Alois Goldbacher per la costituzione del testo critico dell'Epistolario di Agostino che Isidor Hilberg per quello dell'Epistolario di Gerolamo presero in considerazione solo i codici più antichi, quelli del periodo carolino e immediate adiacenze. Ciò si è dimostrato sufficiente anche per le nostre esigenze, le quali sono soprattutto rivolte a mettere in luce i criteri con i quali i due padri pubblicarono le loro lettere. Noi, attraverso l'individuazione della posizione e dell'ordine che l'intero corpus delle lettere scambiate tra Agostino e Gerolamo in generale, e poi in particolare il primo gruppo delle 10-12 lettere, e attraverso l'esame delle lacune e dei guasti che sono o meccanici o di altra origine, ecco, noi cercheremo di classificare i codici proprio usando questi criteri. I codici della recensione Omega, che hanno nel Monacensis latino 6266, un codice della Staatsbibliothek di München proveniente da Freising, il rappresentante più ragguardevole, trasmettono tutte le 12 lettere nel primo gruppo, del primo gruppo, secondo l'ordine 28-40, ecco, cioè sull'allegato, secondo l'ordine 28-40, 67, 68, 39, 74, 73, 72, 21, 75, 81, 82. In essi le epistole 40, 67 e 68 sono senza le lacune proprie del gruppo Psi e la 73 è nella redazione originale completa. I codici della recensione Psi, alla quale appartengono tra l'altro due importanti codici di Köln, il Coloniensis 35 e il Coloniensis 60, entrambi del IX secolo, almeno tre codici della Vaticana, il bellissimo Vaticanus Latinus 355 più 356, che è del IX-X secolo, il Vaticano Latino 5762 del X secolo, che proviene da Bobbio, il Vaticano Latino 341 pure del X-XI secolo, e poi anche un bellissimo codice, anche questo, della Capitolare di Verona, segnato 16 romano, parentesi 14 arabico. Ecco, dicevo che i codici della recensione Psi presentano invece solo le prime 10 lettere nell'ordine 67, 68, 39, 74, 73, 72, 28, oppure 28, 72, 40, 71, 75. In essi le epistole 40, 67 e 40 presentano delle lacune caratteristiche e la 73 è riportata in un testo mutilo ed evidentemente rimaneggiato. Aggiungo una cosa, che per comodità uso solo la numerazione dell'epistolario di Agostino, anche perché la corrispondenza fu iniziata ad Agostino, la maggior parte delle lettere appartengono ad Agostino in questa prima parte, e perché questo è il costume che generalmente usano i principali studiosi. C'è la tabella di comparazione all'inizio della fotocopia. Allora, queste due recensioni, la Omega e la Psi, ci propongono delle varianti che, se non creano eccessivi problemi all'editore critico avveduto, il quale deve tuttavia sapersi destreggiare tra le varie possibilità offerte dai codici senza farsi sviare, ad esempio, dai criteri della Lectio Brevior e della Lectio Facilior, risultano queste varianti utilissime per la classificazione dei codici. Infatti, con il post scripta delle epistole 40, 67 e 62 e la doppia redazione della parte iniziale dell'epistola 73, possiamo generalmente dare una prima sommaria ma non peregrina classificazione di manoscritti, come abbiamo potuto, per fare degli esempi, sperimentare esaminando dei codici che non furono considerati da Goldbacher o da Hilberg, ad esempio il Parisinus Latinus 16861 e il Massiliensis 209, che ci hanno trasmesso le lettere inedite di Agostino scoperte e pubblicate nel 1981 da Diviak, oppure l'Audiensis 105, un codice del IX-X secolo della Landesbibliothek di Karlsruhe, utilizzato in un recente studio di Ralph Hennings, proprio su questo, uno studio su questo carteggio. Se si confronta l'ordine Omega con l'ordine Psi, avendo l'accortezza di mettere accanto a ciascuna lettera le date di invio e di arrivo, si può proseguire con il nostro ragionamento e giungere all'importante conclusione che il gruppo Omega presenta queste lettere secondo l'ordine in cui Agostino le ha inviate e rispettivamente ricevute da Gerolamo, mentre il gruppo Psi le presenta nell'ordine in cui Gerolamo ha inviato le sue lettere e ricevuto quelle di Agostino, come dimostra lo schema di pagina 2 del dossier messo a disposizione dei presenti. Praticamente è una specie di protocollo di entrata ed uscita dei due epistolari. L'ordine Omega, che risale ad Agostino, si basa sulla seguente successione logica delle lettere in esame. E qui sarò volutamente schematico, perché è opportuno che lo sia e anche perché non è possibile fare altrimenti ci vuole un quarto d'ora o 20 minuti solo per spiegare queste cose più minutamente. Allora, l'ordine Omega si basa su questa successione logica. 1. Tentativi di Agostino per iniziare una corrispondenza scientifica con Gerolamo, epistole 28 e 40. 2. Precisazioni di Agostino quando viene a sapere che lo si accusa di aver scritto un liber contro Gerolamo e di averlo divulgato a Roma. Agostino però non immagina che il liber in questione è l'epistola 40. Questo è il contenuto riassunto all'osso dell'epistola 67. 3. Irritazione di Gerolamo e richiesta di un esemplare autentico dell'epistola 40. 4. Gerolamo raccomanda presidio ad Agostino. 5. Lettera di scusa a Gerolamo, questa è la 73, inviata per mezzo di presidio al quale Agostino invia contemporaneamente l'epistola 74. 6. Gerolamo non è ancora in possesso della copia autentica dell'epistola 40 quando scrive la 72. Questa copia autentica arriva con l'epistola 71, alla quale era collegata pure una copia della 28, e Gerolamo con la 75 risponde finalmente alla 40 e insieme anche alla 28 e alla 71. 7. Gerolamo riceve la 73 e risponde con tono pacato, epistola 81. Questa è la prima lettera che manca nell'ordine Psi. 8. Per quanto riguarda le questioni precedentemente proposte a Gerolamo, Agostino ribadisce tutto quanto già espresso nelle epistole 28 e 40 e chiede a Gerolamo il perdono ufficiale, anche se dice di aver capito dal tono dell'epistola 81 che egli è ora abbastanza ben disposto nei suoi confronti, epistola 82. E anche questa seconda lettera manca nell'ordine Psi e nel carteggio pubblicato verosimilmente da Gerolamo. Tutti questi fatti seguono appunto un ordine cronologico basato sulle date di partenza delle lettere di Agostino e di arrivo di quelle di Gerolamo. Venendo all'ordine Psi, che risale a Gerolamo, dobbiamo dire che invece tiene conto di queste altre considerazioni, anche qui sarò schematico al massimo. 1. Agostino precisa di non aver scritto un liber contro Gerolamo, ma di avergli inviato delle lettere in cui aveva espresso il proprio parere su alcuni problemi scritturistici per avere un giudizio da Gerolamo. 2. Gerolamo chiede una copia autentica dell'epistola 40. 3. Gerolamo raccomanda ad Agostino l'amico presidio. 4. Gerolamo anticipa l'epistola 73 di Agostino per indicare che Agostino si scusa con lui per le vicende dell'epistola 40. La parte iniziale dell'epistola 73 nella redazione Psi è rimaneggiata in più punti e si può avanzare l'ipotesi che ciò sia avvenuto con degli scopi ben precisi. Non dico di più ora perché dovremo poi analizzare il testo della 73 minutamente. Con l'epistola 72 Gerolamo richiede ad Agostino ancora una volta la copia autentica della 40. La riceve finalmente con la 71 e risponde con la 75 che nel carteggio pubblicato da Gerolamo è il vero e proprio coronamento di questo scambio epistolare, se lo si considera ovviamente dal punto di vista di Gerolamo. Per questo motivo l'epistola 73 al pari della 74 viene anticipata e sono messe l'81 e la 82. Da questa considerazione deriva un'unica conseguenza. L'autore dell'ordine Psi e dei rimaneggiamenti dell'epistola 73 non può essere che lo stesso Gerolamo. E c'è confermato anche da un passaggio, da una spia che noi troviamo, da una parola spia che noi troviamo nel testo dell'epistola 75, che ci fa capire che Gerolamo ha destinato sin dall'inizio questa lettera alla pubblicazione, persino nel testo inviato ad Agostino, in quanto scrive: «Ec non debent molesta esse lectori, sed et illi, et mi utilia, ut probemus», eccetera, eccetera. Se la lettera non fosse stata predisposta subito per la pubblicazione, ad Agostino avrebbe dovuto scrivere tibi e non illi. I codici Omega hanno tutti i tipi, così come evidentemente anche i codici Psi. Questo, a parere mio, ma anche di Litzmann e di De Bruin, ecco, dimostra proprio che questa lettera fu scritta da Gerolamo con intenti di pubblicazione, anzi, probabilmente come ultima lettera di un gruppo di 10 lettere che stavano per essere pubblicate di lì a qualche giorno. Allora, per riprendere la lettura, ecco, posta la lettera 75, posta alla fine delle 10 lettere raccolte, ordinate e rimaneggiate come in Psi, dà al lettore l'impressione che Gerolamo abbia trionfato su Agostino in tutti i quesiti che gli erano stati proposti nelle epistole 28 e 40. E se l'autore della recensione Psi è Gerolamo, va da sé, quindi, che la recensione Omega risale ad Agostino o a qualcuno che ha potuto accedere all'archivio di Ippona. Passiamo ora a esaminare i rimaneggiamenti dell'epistola 73, secondo il testo che avete davanti. Come appare chiaramente dalla fotocopia che abbiamo messo a disposizione dei presenti, il testo Psi dell'epistola 73 è molto più breve del testo Omega. Io direi il testo dell'apertura, poi bisognerebbe dire, dell'epistola 73 è molto più breve del testo. In vista della pubblicazione, Gerolamo omette i primi due capitoli, fa cominciare la lettera da Cur Itaque poco dopo l'inizio del capitolo 2, paragrafo 3, e modifica radicalmente, omettendo tutto quanto suona critica nei suoi confronti, il testo del capitolo 2, paragrafi 3 e 4. Il testo rimaneggiato da Gerolamo, che a nostro parere deve essere sempre stampato in apparato o a fine lettera quando si fanno edizioni critiche, questa dovrà essere una innovazione che chi farà l'edizione critica dell'epistolario di Gerolamo dovrà introdurre. Allora, dicevo, il testo rimaneggiato da Gerolamo si ricava per sottrazione da quello completo, dando la preminenza dei codici Psi, la preminenza ai codici Psi, in quanto i codici Omega in questo caso servono solo a correggere eventuali errori della tradizione o a operare una scelta tra lezioni parimenti valide. Non do la lettura della parte iniziale della 73 secondo i codici agostiniani, ma la do invece, ecco, secondo la versione rimaneggiata da Gerolamo. Ne do lettura anche perché chi ha una certa pratica dell'epistolario e dello stile di Agostino può capire immediatamente che Gerolamo, pur lavorando abilmente sulla parte iniziale della lettera, propone un testo ben lontano dalle abitudini stilistiche di Agostino, che ama partire alla lontana e solo dopo lunghi giri di frase giunge in medias res. Domino venerando et desiderantissimo fratri et con presbitero Ieronimo Augustinus in domino salutem. Qui il titolo della lettera va integrato, tutti i codici Psi lo omettono, ma non ci sono ragioni per cui la lettera debba comparire senza titolo. Probabilmente dirò più avanti, o è scritto più avanti nella relazione, che è stato un copista troppo precipitoso a tagliare anche il titolo, non solo i primi due capitoli della lettera, troppo zelante. Allora, domino venerando et desiderantissimo fratri et con presbitero Ieronimo Augustinus in domino salutem. Curitaque conor contra tractum fluminis et non potius veniam deprecor. Obsecro ut si te lesi dimittas mi nec me vicissim ledendo malum pro malo reddas. Lede senim si mita cueris errorem meum, quem forte in veneris indictis meis. Non si ea in me reprendis, quae reprendenda non sunt, te potius ledis quam me. Quod absit amoribus et santo proposito tuo, ut hoc facias, potest el infieri, ut tibi videatur aliud quam veritas abet, lutamen aliud abste, non fiat quam caritas abet. Et ego amicissimam reprensionam tuam si tranquillius accepero, non dolebo. Melius tumor capitis dolet, cum curatur, quandum mei parcitur non sanatur. Avverto che nelle fotocopie i tratti in neretto indicano i punti, non nei primi due paragrafi da 73, ma da Curita qua in poi, indicano i punti in cui da una parte, cioè i punti che sono stati da una parte tagliati da Gerolamo, dall'altra invece i punti che hanno subito delle modifiche o stilistiche o nell'ordine da parte di Gerolamo stesso. Quindi sono in neretto trovati quei tratti che vanno posti o in discussione o che comunque hanno subito modifiche da parte di Gerolamo stesso. L'epistola 73, così come era stata scritta da Agostino, non poteva assolutamente entrare nel corpus del primo gruppo di lettere del carteggio Agostino-Gerolamo, ordinato secondo i criteri che presiedono alla redazione psi. Qui infatti, lasciando da parte le poco importanti epistole 79 e 74, le lettere si susseguono nell'ordine più favorevole a Gerolamo. Epistola 67, precisazioni di Agostino sull'epistola 40. Epistola 68, irritazione di Gerolamo e richiesta di una copia autentica della 40. Epistola 73, scuse di Agostino. Epistola 72, nuove richieste di Gerolamo della copia autentica della 40. Epistola 71, con la quale arriva finalmente l'epistola 40, insieme con una copia della 28. Epistola 75, in cui Gerolamo difende così abilmente ed energicamente le proprie idee da costringere Agostino al silenzio. In una simile prospettiva, il testo completo dell'epistola 73, oltre a far sfigurare Gerolamo, fa sorgere numerose contraddizioni interne. Anzitutto, Gerolamo non potrebbe più far apparire di aver sollecitato più volte ad Agostino l'invio di una copia autentica della 40 e di averla ricevuta solo dopo molto tempo e dopo insistenti pressioni, mettendo così in risalto che Agostino si sentiva in colpa o perlomeno poco sicuro di sé se esitava a inviare a Gerolamo la richiesta copia dell'epistola 40, quando invece appare chiaramente che egli ha inviato spontaneamente la copia delle epistole 40 e 28 senza essere stato in ciò sollecitato. In secondo luogo, l'epistola 73 dovrebbe prendere nella raccolta psi il suo vero posto dopo la 75. Gerolamo non aveva infatti ancora ricevuto la 73 quando scrisse la 75 e tutto questo si capirebbe agevolmente attraverso un'attenta lettura del carteggio. Infine, l'epistola 75 non potrebbe più significare, dal punto di vista di Gerolamo, il coronamento vittorioso della disputa scritturistica con Agostino. Di qui l'inevitabile necessità di tagliare tutte le notizie cronologiche contenute nell'esordio dell'epistola 73, altrimenti il carteggio non poteva essere pubblicato con gli intenti che si era prefissato Gerolamo stesso. Dunque, per poter far rientrare l'epistola 73 nella logica della redazione psio-geronimiana, facendola diventare una semplice lettera di scuse, Gerolamo è costretto a continuare il taglio della prima parte della lettera fino al capitolo 2, paragrafo 3.2, e qui ho aggiunto una paragrafatura suppletiva per poter meglio valutare i testi. Allora, Gerolamo deve continuare il taglio fino al capitolo 2, paragrafo 3.2. Solo così questa lettera, privata delle giuste critiche di Agostino, secondo le quali Gerolamo lo avrebbe offeso volontariamente, può tornare a vantaggio della causa di Gerolamo. Infatti in questo lungo tratto, soppresso da Gerolamo, le espressioni di meraviglia, miste a quelle di critica, sono numerose e, partendo da angolature diverse, tendono tutte a dimostrare la precipitazione e la malafede delle critiche di Gerolamo. Leggo alcuni passi, estraggo alcuni passi di questo tipo e li leggo. Ubi molcebar legens, ibi continuo feriebar, oxane vel maxime admirans, quod te dicas exemplaribus literarum mearum, idio temere non putasse credendum, ne forte te respondente lesus juste expustolarem, quod probare ante debuissem meum esse sermonem, ex sic rescribere poste a iubeas, simea est epistula, aperte me scribere aut mittere exemplaria veriora. Qui è il capitolo 1, paragrafo 1. Quo pacto possumus in ac disputazione sine rancore versari, sime ledere paras, proinde cum ita rescribis ut ledas, quis locus nobis relinquitur, in disputazione scripturarum sine ullo rancore versandi. Verum tamen tu mi frater carissime, nisi te putares leisum scriptis meis, non me putares ledi posse le scriptis tuis. Qui è il capitolo 1, paragrafo 2. Sì, non in merito vidisti me iuste expostulaturum fuisse, si temere credere sesse litteras meas, quae non essent me, quanto justius expostularem, me ipsum temere putatum talem quale me non nosset qui putavissent. Ne quaquam ergo ita pro labereris, ut te non rescribente, quo lederer, me tamen existimares nisi incipientem, etiam tali tuo rescripto ledi potuisse. Resta tigitur, ut ledere me rescribendo disponeres, si certo documento me assesse illas litteras nosses. Come vedete ci sono almeno sei passi di contenenti critiche, ripetute e pur con sfumature diverse, ma critiche ripetute all'atteggiamento di Gerolamo. A questo punto Agostino è mai tornato a sufficienza sull'argomento. Il suo pensiero, anche se coperto da sapientissimi giri di frase, è quanto mai chiaro e certamente impone a Gerolamo di riflettere sul proprio comportamento. Rischia però al tempo stesso di far cadere definitivamente ogni possibilità di incontro dei due padri sul piano scientifico, cosa questa alla quale invece Agostino tiene moltissimo. Per questo motivo, anche maestrato da quanto è successo in precedenza tra Gerolamo e Rufino, egli, cioè Agostino, decide di chiedere cristianamente scusa, tentando in tale maniera di non compromettere le rimanenti possibilità di dialogo. Le parole, siamo al capitolo 2-3, atque ita, quia non credo quod in iuste me ledendum putares superest ut agnoscam peccatum meum quod prior te illis litteris leserim quas mea sesse negare non possum, servono da passaggio dai rimproveri alle scuse. E appunto dopo non possum termina la prima lunga omissione operata da Gerolamo sul testo dell'Epistola 73. Cur itaque conor contra fluminis tractum a non potius veniam peto. Così Agostino prosegue questa lettera ed è solo a questo punto che Gerolamo la fa incominciare nella sua redazione rimaneggiata. Ormai il tono è mutato. Dalle ferme rimostranze Agostino è passato alle scuse per mansuetudinem Christi. Ma nonostante il mutamento di tono, nonostante la volontà di chiedere perdono, Agostino non riesce a fare a meno di tornare per tre volte, nei successivi due paragrafi, sull'argomento della volontarietà delle offese di Gerolamo. Nella redazione Psi tutto questo è stato da Gerolamo inesorabilmente tolto, come appare dai tratti in neretto delle fotocopie che segnalano visivamente i tagli operati da Gerolamo. Ora, se si esaminano questi tagli uno per volta, possiamo dire quanto segue. La prima omissione, che va da voluntate ledendi a medicinalem correzionem, siamo all'interno del paragrafo 3, capitolo 2, paragrafo 3, viene introdotta per eliminare l'osservazione di Agostino secondo la quale una correzione fatta voluntate ledendi et dente maledico non può ottenere nessun effetto positivo, soprattutto se giunge immeritata, mentre invece se è fatta benivolo corde, può ottenere l'effetto contrario, anche se si tratta di un rimprovero sbagliato. Nella seconda omissione, che va da gratissima cipiam a medicinale correzionem, viene omessa l'accusa di Agostino, secondo la quale i rimproveri di Gerolamo si riferivano a delle affermazioni che potevano recte defendi. Qui il taglio e la sutura sono fatti con grande abilità e denunciano sicuramente l'intervento di una persona molto capace sul piano stilistico. L'amicissima reprensione di Epistola 73, 2, 3.7 viene infatti sapientemente collegata con il tuam di Epistola 73, 2, 4.3 e la struttura sintattica è ristabilita con grande semplicità, ma al tempo stesso con grande efficacia, posticipando il sì dello stesso capitolo 2.4.3. Se la lunga omissione iniziale poteva scaturire dalla caduta di uno o più fogli ed essere quindi di natura accidentale e del tutto meccanica, l'abile rimpasto del periodo appena esaminato non può essere attribuito che alla bravura e alla consumata abilità stilistica di Girolamo. E diciamo, tra parentesi, anche che qui ha minore importanza il fatto che si voglia leggere amicissima reprensionem tuam si tranquillus accepero, anziché amicissima reprensionem tuam si tranquillius accepero. L'elativo accentua però la remissività di Agostino nei confronti dei giusti rimproveri di Gerolamo e quindi, anche tenendo presente che tranquillius è attestato praticamente da tutti i codici psi, per il testo della redazione mutila dell'epistola 73 appare preferibile appunto tranquillius. Infine, il periodo che va da Sivero a Contristari è stato tolto da Gerolamo per non lasciar trasparire che Agostino si era rattristato in seguito alle sue offese. Fin qui abbiamo analizzato i maggiori interventi di Gerolamo sulla parte iniziale dell'epistola 73. Restano però da considerare e spiegare le altre discordanze tra la redazione Omega e la redazione Psi di questa lettera. 1. Tutti i codici del gruppo Psi omettono il titolo della lettera, Domino venerando et desiderantissimo fratri et com presbitero Hieronimo Augustinus in domino salutem. Come afferma Donatien de Bruyn, che con Hans Lithmann è il maggiore studioso di questo carteggio, ciò è verosimilmente dovuto all'eccessivo zelo del copista nell'eseguire gli ordini di Gerolamo. Il copista ha evidentemente omesso tutta la prima parte della lettera, compreso il titolo. E va da sé che in un'edizione della redazione mutola dell'Epistola 73 esso va supplito seguendo i codici Omega, in quanto certamente Gerolamo non aveva nessun motivo per toglierlo, come abbiamo proposto noi prima. 2. Caratteristici della redazione mutila di questa lettera sono i numerosi cambiamenti d'ordine delle parole. Contra tractum fluminis anziché contra fluminis tractum. Si te lesi anziché si lesi te. Potius ledis anziché ledis magis. Videatur aliud anziché aliud videatur. E aliud abste anziché abste aliud. La cosa sarebbe di scarsa importanza se non avvenisse così spesso. È pressoché impossibile dare una spiegazione precisa di questo fenomeno. E non ci resta che accogliere tutte queste inversioni d'ordine nel testo della redazione mutila, che deve essere basato sui codici Psi, mettendo naturalmente le lezioni dei codici Omega in apparato. Possiamo però anche supporre che Girolamo preferisca un cursus diverso da quello agostiniano. Terzo, molto più interessante è rilevare che i codici Psi hanno alla fine del capitolo 2, 3.4, deprecor o qualcosa di simile, perché ci sono delle varianti, anziché peto. Qui la differenza è sostanziale e ci permette di scorgere con ogni probabilità ancora la mano di Gerolamo. 4. I codici Omega hanno al capitolo 2, 3.5, in factis vel dictis meis, mentre i codici Psi hanno solamente in dictis meis. Nel dare il testo rimaneggiato dell'Epistola 73 abbiamo seguito la Lectio Brevior solo per ragioni metodologiche, preferendola al pur possibile ripristino di in factis vel dictis meis, attraverso il recupero di factis vel caduto per omeotereuto. In apertura del capitolo 2, 3.67 abbiamo infine preferito reprendis a reprenderis, accantonando il criterio della lectio difficilio. Devo dire a questo punto che il mio è il primo serio tentativo di fare un testo critico della redazione mutila di questa epistola. In vero, in un nel saggio di Ennis che ho citato prima, c'è un tentativo di dare il testo ridotto, però è fatto con criteri diversi dai nostri, in quanto semplicemente Ennings fa l'operazione di sottrazione, non rovescia nel testo e quindi in un eventuale apparato che non c'è le lezioni dei codici, dando la preminenza assoluta ai codici Psi anziché ai codici Omega. Alcune brevi osservazioni sui finali delle epistole 40, 67 e 68 e poi la conclusione. Tutti i codici psi presentano queste tre lettere con delle caratteristiche lacune finali che mancano nella totalità dei codici omega. Queste lacune, come si vedrà dal loro esame particolarizzate, non sono di grande rilievo ai fini del testo delle epistole 40, 67 e 68, ma assumono grande importanza qualora vengano considerate come luoghi caratteristici per stabilire la parentela dei manoscritti, in quanto esse danno ulteriore legittimità all'ordine psi. 1. L'epistola 40 nei codici psi presenta alla fine la caduta dell'ultimo periodo. Unc interea paulum fratrem nostrum in Cristo multum commendo benignitate tue, cuius in nostri regionibus existimazioni bonum coram Deo testimonium peribemus. Questo periodo è probabilmente la subscrizio autografa nella quale Agostino raccomandava a Gerolamo il latore della lettera. Non è tuttavia difficile spiegare il motivo di questa omissione. Se si suppone che Gerolamo considerò inutile quest'ultimo periodo, oppure che per errore il copista prese come modello l'esemplare privo di subscrizio portato a Betlemme da Sisinio, anziché la copia autentica che Agostino inviò a Gerolamo nel 403 con l'epistola 71. 2. L'epistola 67 presenta nei codici psi la caduta dell'ultima parte riservata ai saluti finali. Memor nostri exaudiaris ad omino in omni sancto desiderio, domine carissime et desiderantissime et onorande in Cristo Frater. Anche qui l'omissione non sembra essere dettata da particolari motivi, essendo probabilmente dovuta a una disattenzione del copista. Terzo, l'epistola 68 ha nei codici psi, tranne che nel Veronensis 16-14, che la presenta completa, l'importante omissione di tutto l'ultimo capitolo terzo, contenente l'accenno alla controversia con Rufino e i saluti finali. Anche il motivo di questa mutilazione è piuttosto difficile da scoprire. De Bruin propone la seguente spiegazione, che ha buona probabilità di essere esatta. Gerolamo aggiunge, conformemente all'usanza del tempo, alcune linee di propria mano, ma non si preoccupa di fare la medesima aggiunta nella minuta che egli ha conservato. Quando più tardi pubblica questa lettera, essa appare priva del finale. Agostino invece agisce diversamente, pubblicando anche il finale autografo di Gerolamo. Evidentemente, come testimoniano le ultime righe di un'altra lettera di Gerolamo, propria manu quod scribo, beatitudini tue scribo con tutto quel che segue, Gerolamo aggiungeva spesso alla fine delle proprie lettere un post scriptum autografo che generalmente non veniva trascritto sulla copia che rimaneva nell'archivio di Betlemme. E vado verso la conclusione. Cercando di tirare le somme della nostra riflessione sul primo gruppo di lettere del carteggio Agostino Gerolamo, possiamo tranquillamente affermare che la redazione abbreviata della prima parte dell'Epistola 73, le lacune finali delle epistole 40, 67 e 68 e probabilmente anche lo stesso ordine psi sono delle vere e proprie varianti d'autore. Si tratta di una categoria generalmente legata alla diffusione in buon numero di esemplari delle opere letterarie, categoria che è ben nota ai filologi moderni e che si riscontra più spesso di quanto si possa immaginare anche nelle letterature classiche, tanto che in un manuale famoso Giorgio Pasquali dedica ad essa un intero capitolo, dove tra l'altro scrive: «In un genere particolare, le lettere, le condizioni della propagazione sono particolarmente favorevoli alla formazione e alla conservazione di varianti d'autore». Nel caso del nostro carteggio siamo inoltre di fronte a un unicum. Ciascuno dei due... indipendentemente dall'altro le proprie lettere assieme a quelle del corrispondente, ma uno di loro organizza il carteggio modificando almeno una delle lettere a lui pervenute e applicando criteri tali da offrire al pubblico dei lettori un dossier favorevole alle proprie tesi. È ben vero che al limite, e al limite l'ho messo tra virgolette, è ben vero che al limite l'atteggiamento di Gerolamo è legittimo. Infatti, secondo la giurisprudenza del tempo, egli è divenuto proprietario delle lettere di Agostino a lui indirizzate, in quanto pubblicare insieme con le proprie le lettere del corrispondente era giuridicamente lecito allora come lecito, oggi. Secondo il giurista Upiano, il dominium della lettera passa al destinatario appena l'abbia in mano questi o un suo servo o un suo procurator. Ci sono però delle norme di fair play che avrebbero dovuto consigliare a Gerolamo un comportamento più corretto. La lunga e serrata disputa con Agostino sulla controversia antiochena nuoce da sempre, ancor più della polemica con Rufino e con altri amici o collaboratori, all'immagine dello Stridonese, facendo passare spesso in secondo piano i suoi grandissimi meriti di autore della Vulgata e di profondo commentatore dei testi biblici. Da parte nostra abbiamo oggi fatto emergere un aspetto inconsueto e meno noto della personalità del terribile dalmata, quello della sua disinvolta attività di editore del proprio epistolario. Considerando anche le procedure dell'archivio di Betlemme, ci è stata data la possibilità di svolgere un'indagine che va ben oltre le dimensioni della filologia. Speriamo abbia suscitato anche l'interesse dei nostri uditori. Grazie.